Nessun luogo, nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, un buongiorno da parte mia, ma anche da Valeria Coffaro in redazione, Fabio Cantadori alla parte tecnica. Allora, nessun luogo lontano, allora oggi vi parlo di immigrazione, di quanto vale l'immigrazione, perché per ogni migrante che arriva in Europa, per ogni nave che tenta lo sbarco, per ogni frontiera che un afghano attraversa per arrivare da noi e per ogni chilometro di deserto che un ghanese percorre sognando l'Europa, un fiume di denaro entra nelle tasche dei trafficanti. La gomorra mondiale dei trafficanti può contare su un'offerta illimitata di migranti che vogliono partire per il nord del mondo. 10, 20, anche 30 mila euro per ogni migrante. Centinaia di migliaia di persone che ogni anno cercano di raggiungere il vecchio continente. Soldi facili, soldi sporchi. Di questo parliamo oggi a Nessun Luogo è Lontano. E lo facciamo con due ospiti, Andrea Di Nicola, criminologo dell'Università di Trento, e Fabrizio Sarrica, ricercatore delle UNODC, che è l'ufficio antidroga, anticrimine dell'ONU. Per interagire con noi, commentare oppure porre questioni e domande ai miei ospiti, sms 349-238-6666, la mail nessunluogo@radio24.it e poi siamo anche la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. Ma io intanto vi racconto una storia. La storia è quella di Mazhar Iqbal Butter, è un giovane pakistano di 32 anni che risiede in Italia da alcuni anni, almeno dall'inizio del 2007. Aveva un lavoro a Livorno, Butter, aveva trovato una casa, ma essendo irregolare aveva deciso di sanare la sua posizione e così da Livorno si reca a Brescia per regolarizzarsi. È un tipo mite, Butter, veste all'occidentale, non dà nell'occhio. Butter assomiglia tremendamente a Mazhar Iqbal Butter, anch'egli pakistano, su cui pende un mandato di cattura internazionale per traffico di uomini. Butter, quello nel mirino di Islamabad e della polizia di mezzo mondo, ha i baffi. Butter no. Anche la pettinatura è differente. Il cognome differisce solo per una vocale. In più, Butter, il giovane pakistano dall'area mite che cerca di regolarizzarsi, ha una cicatrice sul viso, uno sfregio che gli attraversa la tempia e va a lambire il sopracciglio sinistro, una ferita che pare piuttosto recente. Ma poi c'è una seconda cicatrice, una cicatrice a forma di stella sulla mano sinistra di Butter. Davanti all'ufficio passaporti della questura di Brescia, un agente della Digos fissa la cicatrice di Butter. La nota che accompagna la foto segnaletica di Islamabad, che arriva alla polizia italiana e che ritrae Butter, è molto chiara. Segni particolari, una cicatrice a forma di stella sulla mano sinistra. Chi è Mazhar Iqbal Butter? Michele Viola, a capo della Digos di Latina. Allora, il cittadino pakistano Butter Mazhar Iqbal, che abbiamo arrestato nella mattinata di mercoledì 11 agosto insieme alla questura di Brescia e di Livorno, era uno degli uomini di spicco di un'organizzazione pakistana che era dedita al traffico di esseri umani. Il soggetto già almeno dal 2005 faceva parte di questa organizzazione che trasportava uomini verso l'Europa con paese di origine il Pakistan. Il percorso era abbastanza tortuoso, quindi delle tratte che venivano fatte mediante mezzi di fortuna piuttosto che anche percorsi a piedi per attraversare i vari confini dei paesi, logicamente non nelle zone controllate dalle dogane. Il percorso partiva appunto dal Pakistan, si passava all'Iran, da lì alla Turchia e infine in Grecia. Dalla Grecia probabilmente anche a bordo di camion o altri mezzi di fortuna giungevano in Italia. Da quello che hanno potuto riferire le autorità pakistane, l'organizzazione era abbastanza capillare e organizzava il viaggio in ogni suo profilo, sotto ogni profilo possibile. Sicuramente ci sono stati dei passaggi, delle tratte in cui i soggetti venivano temporaneamente abbandonati in modo da evitare che i soggetti dell'organizzazione potessero incappare in determinati controlli, ma il percorso effettuato, molto lungo, molto tortuoso, fa pensare con abbastanza certezza che l'organizzazione curasse nei minimi particolari il trasferimento e la tratta di questi soggetti. Allora, un'organizzazione efficiente, efficace, ramificata in giro per il mondo che portava i migranti qui in Italia. Buongiorno Andrea Di Nicola. Buongiorno Giampaolo. Allora, Andrea Di Nicola, criminologo dell'Università di Trento, chi è Chi è Butter? Chi è questo pakistano? Butter è un imprenditore senza scrupoli, un imprenditore illegale, ma pur sempre un imprenditore a tutti gli effetti. E un buongiorno anche a Fabrizio Sarica, dell'agenzia antidroga e anticrimine dell'ONU. Buongiorno dottor Sarica. Buongiorno, buongiorno Giampaolo. Sarica, quanti butter ci sono nel mondo? Quanti trafficanti ci sono? Non sappiamo, chiaramente tanti, tantissimi, non sappiamo esattamente il numero, però sicuramente qualche migliaia. Allora, oggi cercheremo di capire bene chi sono, quanti sono e come operano. Ma siccome nessun luogo è lontano, io intanto vi porto a Ceuta, città autonoma spagnola in territorio marocchino, per ascoltare la drammatica testimonianza di Gurgissi, un indiano che ha fatto un viaggio di 3 anni per tentare di arrivare in Europa. Yeah, this is a long history in India to in Ceuta. La mia è una lunga storia. Sono partito dall'India, da Nuova Delhi, il 5 dicembre del 2005. Sono arrivato in Etiopia in aereo. Ho aspettato 2 ore. E poi ho preso un altro aereo per andare in Mali, a Bamako, dove sono stato fermo 2 mesi ad aspettare. Lì la mafia degli africani mi ha preso in consegna e assieme ad altri mi ha portato in una casa ad aspettare la tappa successiva del viaggio. Ma c'erano un sacco di problemi. C'era poco riso da mangiare, poca acqua da bere. Vivevamo in 30 persone in una piccola casa. Era anche impossibile lavarsi. Quelli della mafia mi dicevano che non si poteva usare troppa acqua perché non avevamo pagato abbastanza. Siamo rimasti lì 2 lunghi mesi. Poi l'agente della mafia mi ha detto che ci saremmo spostati in un'altra città del Mali e così siamo andati a Ugao. Lì ho aspettato 2 settimane. Poi abbiamo iniziato a preparare il viaggio nel deserto. Allora la mafia ha procurato un camioncino. Eravamo 18 persone, carichi di carburante, bagagli, acqua e cibo. Un caldo incredibile. Abbiamo avuto tanti, tanti problemi durante il viaggio. La gente vomitava, stava male. Dopo un giorno e una notte di viaggio abbiamo raggiunto la frontiera con l'Algeria e poi siamo stati lì fermi altre 2 settimane. Era tutto deserto e tirava vento. Aquí todo desierto. Mucho viento, too much air. Allora, la mafia dei trafficanti, come la chiama Gurgissi, forse c'è, come dire, un errore lessicale che adesso cerchiamo di svelare immediatamente. Sarica, è corretto parlare di mafia dei trafficanti, cioè come se fosse una cosa sola? Beh, in realtà sicuramente non è una cosa sola. Il panorama delle organizzazioni è molto articolato e si va dalle organizzazioni un po' più strutturate, per esempio in Centro America, dove i cartelli messicani gestiscono anche la migrazione clandestina, a quelli un po' più, diciamo, occasionali. Nella realtà africana quello che sappiamo è che si dovrebbe parlare più esattamente di networks, diversi networks criminali che sono connessi l'uno con l'altro e che poi permettono appunto lo spostamento di questa grande massa di persone dal continente africano verso l'Europa. La realtà asiatica è ancora un po' più differente, nel senso che come il migrante che abbiamo sentito adesso, in quel caso spesso gli asiatici vengono trafficati da strutture più organizzate, il pagamento del viaggio viene normalmente effettuato nel paese di origine per l'intero viaggio, cosa che li rende chiaramente vulnerabili durante la rotta. E in quel caso sì, probabilmente le organizzazioni di trafficanti sono diciamo più strutturate di quelle un po' più flessibili che gestiscono la rotta degli africani in Africa. Allora, chiedo scusa, la interrompo perché ha toccato un punto che io, quando ho toccato io stesso con mano a Ceuta parlando con questo gruppo di indiani, mi ha, come dire, aperto uno scenario che fino a quel momento non avevo valutato. Allora, uno degli indiani era un gruppo di 80 ragazzi del Punjab che avevano pagato in India, a Punjab o a Nuova Delhi, il trafficante. Mi dicevano che in alcuni casi erano rimasti bloccati alla frontiera Algeria-Marocco e i trafficanti algerini e marocchini li ricattavano chiedendo ulteriori soldi e poi controllando in India se la famiglia pagava al, diciamo, chiamiamolo, al capo trafficante di Nuova Delhi. Questa cosa presuppone, come diceva lei, un network, ma un network transnazionale, cioè un trafficante algerino che alza il telefono e parla col trafficante indiano. Sì, sì, assolutamente, questa è la realtà dei migranti asiatici, questo che passano, che arrivano in Europa attraverso l'Africa, ma anche noi abbiamo incontrato nei nostri studi moltissimi casi del genere. Mi azzardo a dire che è la situazione di tutti i migranti asiatici che passano attraverso l'Africa. Sicuramente, detto, questa rotta è molto più organizzata, molto più strutturata, chiaramente non può essere gestita in maniera occasionale, ma ci sono dei professionisti dietro questa rotta. E comunque tutta la rotta, in tutta la rotta i vari passaggi, i vari step della rotta, i soggetti che gestiscono la rotta sono diversi, ma in coordinazione l'uno con l'altro, appunto si sentono per telefono, aspettano le transazioni finanziarie e così via. Allora, oltre a sentirsi per telefono, la mafia dei trafficanti, usiamo questa semplificazione insomma per capirci meglio, non solo ha potenti mezzi, ma è armata e usa le maniere forti se è il caso. Uno dei ragazzi indiani portava sul suo braccio sinistro 7 coltellate. 7 coltellate per i 7 giorni di ritardo che la famiglia aveva speso nel pagare ulteriormente il trafficante di Nuova Delhi. Per cui ogni giorno, se il trafficante di Nuova Delhi non dava la telefonata di ok in Algeria, veniva inflitta una coltellata a uno dei migranti. Andrea Di Nicola, quanto il modello, diciamo, imprenditoriale, economico, ci aiuta a capire meglio questo network di loschi personaggi che si parlano, di questi delinquenti che si parlano fra di loro e fanno business? Quanto ci aiuta a, come dire, a girare la testa e a pensare a loro come dei businessmen? Io credo molto, sebbene dobbiamo inserire elementi di violenza e di brutalità, molto. Stiamo parlando di organizzazioni, abbiamo visto, ne parlava il dottor Sarrica, grandi reti che passano da una parte all'altra del mondo, che si parlano, che si gestiscono, che si organizzano. Oggi è difficile ridurre ad unità questa molteplicità, però si va da imprese piccole a imprese grandissime, forme organizzative che riescono ad essere strutturate, che riescono a parlarsi, che riescono a muoversi in diverse parti del mondo e soprattutto che riescono a raggiungere i loro obiettivi. E quindi credo che il modello di impresa sia quello che veramente oggi ci aiuta a capire questa organizzazione. Allora, cercare di capire questa organizzazione e anche cercare di, come dire, abbattere un po' di luoghi comuni che esistono su quello che è il fenomeno migratorio. L'aspetto economico, quello dei trafficanti, è un po' la faccia oscura che molto poco si racconta. 349-238-6666 è il numero per gli sms per rivolgere domande. È quello che ha fatto Michele da Bergamo, che chiede: ma una persona che possiede 10-20 mila euro non può prendere un aereo o ha qualcosa da nascondere? Non è questione, caro ascoltatore, di avere qualcosa da nascondere, è questione che la legislazione europea non permette a tutti quelli che vogliono entrare in Europa di entrare in Europa, quindi c'è una grossa fetta di gente che tenta di entrare irregolarmente. Lo fa per vari motivi, lo fa per fuggire da guerre, per cercare di cambiare la propria situazione economica, non tutti fuggono da situazioni disperate, molti però vogliono cercare di cambiare vita. E allora che cosa succede? Che di fronte a questo sogno del cambio di vita, di fronte al sogno di questa Europa in cui tutto potrebbe andare bene, ma che poi non è vero, perché poi il feticcio si sgretola inesorabilmente, allora viene fuori il trafficante, che è questa persona che promette loro, in cambio di denaro sonante, 10, 20, 30 mila euro, la promessa qual è? Di arrivare in Europa facilmente, tranquillamente, in poco tempo, magari in una settimana o due, salvo poi impiegarci un anno o due anni. Nessun luogo è lontano. Nessun luogo. luogo è lontano, la mafia dei trafficanti, un'offerta inesauribile di persone che vogliono cambiare vita e vogliono arrivare in Europa, ma anche lasciare l'America centrale e andare negli Stati Uniti, e quindi c'è qualcuno che approfitta e dà loro la possibilità di farlo a caro prezzo, perché si paga tantissimo e spesso si muore. Gli SMS 349-238-6666. Un altro ascoltatore chiede: gente che vive in paesi dove il reddito è di $5 al giorno, dove li prende 20.000? Osservazione giustissima, è facile. Basta che la famiglia venda tutto quello che ha. Basta che vengano vendute magari le case o i beni o il campo. Io ho incontrato questi indiani a Ceuta, stavo raccontando, dove alcune di queste famiglie erano agricoltori. Ebbene, l'intera famiglia ha preso la decisione di indebitarsi e vendere quasi tutto per in qualche modo caricare il figlio di questo enorme fardello e andare in Europa. Andare in Europa con questo debito gigantesco accumulato dalla famiglia e rifarsi una vita, trovare un lavoro, salvo poi dover ripagare l'intero debito. La famiglia si indebita spesso con gente che, come dire, con gente d'affari, ma spesso con i trafficanti stessi, e quindi si innesca un meccanismo vizioso, tragico, drammatico, per cui il migrante diventa ostaggio della mafia dei trafficanti. Allora, dottor Sarica, torniamo con lei, perché dobbiamo fare una prima distinzione per inquadrare meglio il fenomeno, perché noi stiamo parlando di traffico e di tratta, che sono due cose molto diverse. Mi aiuti a fare chiarezza? Sì, diciamo che la Convenzione internazionale di Palermo è quella che ha definito internazionalmente i due fenomeni e quindi li ha definiti e li ha distinti. Il traffico di persone, in inglese trafficking persons, sarebbe non solo sarebbe il reclutamento di una persona attraverso metodi violenti o imbrogliandoli attraverso un debito forzato e poi il successivo sfruttamento, quindi è un vero e proprio processo che può prendere forma in diversi momenti e in diversi luoghi. Ecco, lei parlava per esempio delle famiglie o dei migranti che si indebitano. Sì. E questo è il caso tipico delle ragazze nigeriane che appunto vogliono emigrare o sono convinte da qualcuno ad emigrare in Europa, si indebitano con questi diciamo venditori di sogni e poi una volta a destinazione sono obbligate a prostituirsi per poter ripagare il debito. Questo è un classico caso di traffico di persone. Stessa cosa per quanto riguarda tipicamente il traffico di persone di origine cinese. Sì. In questo caso non si parla soltanto di prostituzione, ma anche di traffico di persone a fine di sfruttamento lavorativo. Il traffico di migranti, in inglese smuggling of migrants, sarebbe il semplice, diciamo, l'assistere un migrante ad entrare clandestinamente in un paese dove non avrebbe diritto. Sì. Però poi diciamo che il migrante non ha un debito che deve ripagare verso il trafficante. Una volta che sbarca, una volta che è arrivato in aeroporto con i documenti falsi, una volta che ha passato la frontiera via terra, è libero, quindi può cercare di muoversi, di rifarsi una vita, non ha più questo debito, questo fardello sulle spalle da ripagare. Esatto, diciamo che il smuggling of migrants è il semplice atto di passare o assistere una persona a passare irregolarmente il confine. Poi chiaramente, come l'esempio di prima dimostra, questi due fenomeni sono fortemente correlati o legati o si sovrappongono, nel senso che un migrante che è stato aiutato ad entrare clandestinamente in un paese poi è vulnerabile allo sfruttamento e quindi il fenomeno si può trasformare o evolvere in traffico di persone, in tratta, mi scusi. Sì. Allora ascoltiamo insieme i numeri da capogiro della tratta di persone a livello mondiale. L'OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, stima che nel mondo ci siano almeno 2,45 milioni di persone sfruttate in lavori forzati come conseguenza di processi di tratta di esseri umani. Questa stima include sia la tratta di persone a livello transnazionale, sia quella interna, da un'area ad un'altra della stessa nazione. La maggior parte di queste vittime, il 43%, è trafficata a scopo di sfruttamento della prostituzione, il 32% per sfruttamento economico-lavorativo, il 25% per ragioni miste. Sempre secondo l'OIL, di questi 2,45 milioni di vittime, 270.000 sono state trafficate e sono sfruttate nelle economie industrializzate, 200.000 nelle economie in transizione, 1.360.000 in Asia e nel Pacifico, 250.000 nell'America Latina e nei Caraibi, 130.000 nell'Africa subsahariana, 230.000 nel Medio Oriente e nel Nord Africa. Assumendo che ogni vittima abbia pagato il suo spostamento in media 6-8.000 euro, si va infatti da casi di pagamenti di 1.000 euro a cifre che arrivano a 30-40.000 a seconda delle regioni del mondo, si può sostenere che nelle tasche dei trafficanti siano entrati tra 14,7 e 19,6 miliardi di euro. E questa cifra riguarda i soli trasferimenti e non i soldi che si possono guadagnare da un successivo e sistematico sfruttamento delle persone una volta a destinazione. Andrea Di Nicola, come fa il trafficante a spostare questa enorme massa di denaro? Come fa un algerino a verificare che il trafficante di Nuova Delhi gli abbia mandato i soldi? Cosa fanno? Fanno i bonifici bancari o che altro? Ma non dovrebbero e non possono fare bonifici bancari. È logico che, soprattutto se stiamo parlando di paesi occidentali, è tutto controllato, ci sono discipline abbastanza stringenti per il controllo antiriciclaggio nelle banche, perciò i metodi sono molto più rudimentali ma forse più efficienti. Pensate ad una rete di banche informali, ad esempio, si chiamano sistemi Avala, nascono dall'Oriente, in cui le persone si scambiano denaro andando in dei nodi di queste reti. Pensate a delle banche informali, potrebbe essere un gioielliere oppure semplicemente un ristoratore, qualcuno che ha denaro, magari in Italia, per farvi questo esempio. Il trafficato, la persona che deve spostare, il trafficante va da questa rete, da questo nodo di banche informali, non trasferisce denaro, dà soltanto a quel nodo dei soldi e automaticamente dall'altra parte del mondo ci sarà un altro nodo di questa rete informale che darà, pagherà, e poi ci saranno degli scambi tra i nodi della rete e quindi i vari intermediari faranno delle compensazioni, ma il denaro non circola, eppure circola. Oppure pensate soltanto al trasferimento che può avvenire con metodi ancora più rudimentali, cioè dentro valigette o tutti i sistemi che sono poco controllati, quelli che sono money remittance service, le rimesse di denaro. Attraverso questi metodi centinaia e centinaia di milioni di euro, quindi stiamo parlando di molto denaro, possono transitare. Quello che è certo è che ci sono ad esempio pochissime indagini sui flussi finanziari dei trafficanti, proprio perché questa informalità e questa efficienza rende difficilmente controllabile tutto questo. È un vulnus nel sistema che alimenta la capacità organizzativa e strutturale di queste mafie, soprattutto quando sono grandi multinazionali organizzate che hanno nodi della rete in tutto il mondo. Ecco, allora, una rete fatta di nodi grossi, ci sono queste teste, diciamo, che poi sono quelle che più difficile andare a prendere, poi si ramificano, arrivano i pesci piccoli sono il camionista greco che li traghetta da Patrasso a Lecce o a Bari, c'è il piccolo trafficante marocchino che gli dà una mano a passare la frontiera di Ceuta. Allora, un po' di ascoltatori ci sollecitano via SMS, facciamo maggiore chiarezza: la tratta è traffico più sfruttamento, cioè il migrante, la ragazza nigeriana che viene presa a Lagos e viene costretta a prostituirsi, viene portata in Italia, finisce a Castelvolturno sulla via Domiziana. Bene, quella ragazza è schiava, non solo viene traghettata in Italia, ma in più ha un debito, quindi deve lavorare per il trafficante. Salvo poi esserci molto spesso delle combinazioni tra le mafie, anche quella italiana, perché ad esempio nella zona di Castelvolturno la mafia nigeriana ha stretto degli accordi col clan dei Casalesi, per cui si sono spartiti il business sia della droga che quello della prostituzione. Il traffico di per sé non dà un debito se non quello del viaggio al migrante, per cui io, algerino, una volta che ho passato il Mar Mediterraneo, sono sbarcato a Gela, a Siracusa, in Salento, sono libero. Tutto qui. Allora, Dottor Sarrica, abbiamo fatto chiarezza tra traffico e tratta. Veniamo al punto, quello forse più spinoso. Allora, io ho accennato al fatto che ci sono, no? Queste eminenze grigie, questi grossi trafficanti, pezzi grossi, e poi ci sono i pesci piccoli. Quanto è efficace, secondo lei, la legislazione? Quanto è facile andare a pigliare i pesci piccoli e i pesci grossi? Ma sì, chiaramente è molto difficile. Questi mercati illeciti sono diciamo a basso rischio per i trafficanti, legato soprattutto al modus operandi. Immaginiamo soltanto che la forma di traffico che più si conosce, quella degli sbarchi nelle isole greche o a Lampedusa o nelle isole Canarie, la maggior parte di questi sbarchi vengono effettuati dai migranti senza un pilota, quindi sostanzialmente non c'è il criminale non mette piede in Italia o in Europa, perché questi barconi poi vengono sostanzialmente guidati, vengono dati in mano ai migranti e ai migranti viene data una... Ecco, nel frattempo è caduto il dottor Sarrica, cerchiamo di recuperarlo. Stava toccando un punto fondamentale. Negli anni è cambiata la politica dei trafficanti, perché i maggiori controlli alle frontiere fanno sì che lo scafista sia più facilmente prendibile. E allora che cosa fanno? Una volta si partiva un po' di più dalla Libia, adesso si parte un po' meno e si arriva in punti diversi, perché la rotta di Lampedusa è chiusa. Viene data la barca, il timone, viene dato a uno dei migranti. Molto spesso questo non ha nemmeno la più pallida idea di come pilotare la barca, e questo porta delle conseguenze tragiche, perché molto spesso i barconi si perdono nel mare, vedono delle luci, credono che sia l'Europa invece una stazione petrolifera, come spesso è accaduto, e quindi questo crea il dramma nel dramma. Di Nicola, torno a lei, perché sulla fase della repressione, no, è tornato Sarrica, sì, dottor Sarrica. Sì, stavo dicendo che appunto è molto difficile, un po' perché comunque il modus operandi dei trafficanti è molto evoluto, rischiano pochissimo, danno tutto il rischio nelle spalle dei migranti, che evidentemente sono molto vulnerabili. Per quanto riguarda il contesto legislativo, sicuramente la cooperazione internazionale è il punto chiave. Queste indicazioni di questo tipo ci vengono da tutte le polizie del mondo, con tutte le forze dell'ordine con cui abbiamo avuto modo di parlare, chiedono una maggiore cooperazione internazionale tra le varie polizie, sia a livello europeo sia a livello, diciamo, con i paesi di origine. Nessun luogo è lontano. Sarrica, la lascio perché so che gli impegni sono urgenti e pressanti, però telegrafico un'ultima domanda, chiudiamo il concetto. Lei dice la parola d'ordine è collaborazione, l'anello debole dov'è? Perché la polizia cinese o la polizia pakistana o quella algerina non riescono a collaborare? Qual è il quid? È una domanda difficile. Sicuramente ci sono degli interessi, ogni paese, sia di paesi di origine che di transito che di destinazione, in alcuni segmenti di queste società ci sono degli interessi a questi flussi migratori. Ripeto, probabilmente c'è anche il discorso che questi fenomeni, tipo come la tratta di persone, il traffico di migranti, non sono visti come elementi prioritari, criminalità prioritarie rispetto a altre forme criminali come il traffico di droga in molti paesi, e la soluzione è incominciare a implementare la Convenzione internazionale sul crimine organizzato e in particolare i protocolli che si occupano di tratta di persone, di traffico di migranti, la Convenzione di Palermo, perché diciamo sta iniziata a Palermo nell'anno 2000 e ha tutti gli strumenti per colpire i criminali, i network organizzati e allo stesso tempo garantire i diritti fondamentali dei migranti sia nei paesi di transito che nei paesi di destinazione. Chiarissimo, grazie. Allora Fabrizio Sarrica, ricercatore del UNODC, che è l'ufficio antidroga, anticrimine dell'ONU, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Allora, la giustizia, come si muove, come si muovono le polizie, abbiamo chiesto lumi a Giusto Sciacchitano, procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, lo ascoltiamo insieme. Naturalmente l'Italia, come altri paesi, spendono molto in termini di uomini, di attrezzature per fermare questo che è diventato purtroppo il secondo business della criminalità organizzata dopo il traffico di droga. Ma come il traffico di droga ha diverse complicazioni, sia interne per ogni paese, sia internazionali. Intanto la tratta di uomini cambia ed è difficile da affrontare perché le rotte cambiano continuamente. Cambiano le rotte perché cambiano le politiche dei vari paesi, perché naturalmente c'è un contrasto maggiore e quindi questo determina un cambiamento da parte dei trafficanti, ma addirittura è cambiato negli ultimi anni lo stesso rapporto tra la vittima e il trafficante. Altra difficoltà è quella che incontriamo a livello internazionale. Naturalmente il traffico di persone, come per la droga, non sembra strano questa accomunare due fenomeni così diversi, ma purtroppo hanno molti aspetti che li accomunano. Come è evidente, vi è un paese di origine, un paese di transito, un paese di destinazione. Spesso le indagini partono dal paese di destinazione, quindi l'Italia, e dovrebbero risalire all'indietro per trovare tutti gli anelli della catena. Ma questo non avviene. Non avviene perché le difficoltà sono notevoli, molti paesi non collaborano, anzi, la gran parte dei paesi da cui origina proprio questa tratta ancora non danno nessun tipo di collaborazione. E quindi alla fine noi cogliamo l'ultimo anello della catena. Teniamo conto che la tratta di persone, a differenza della droga, è gestita quasi esclusivamente dai gruppi criminali stranieri che operano dall'estero. Se non arriviamo nei paesi di origine o di transito, naturalmente non colpiamo mai il traffico vero e proprio. Allora, avete sentito le parole di Sciacchitano, è molto preciso. Merce, droga, come persone, come migranti. Alla fine sono dei pacchetti. Andrea Di Nicola, mi soccorra in questa mia lettura. Alla fine io credo, no, che se un trafficante perde un carico di Kalashnikov nel deserto è un problema. Se un trafficante di droga perde una partita di cocaina è un grosso problema. Ma se il trafficante perde un camion di disperati nel deserto algerino è un problema? No, io ne ho vagonate di migranti che vogliono venire. In questo senso è un business meraviglioso, è il paradiso. Di Nicola. È cinico, sembra cinico parlare così, ma purtroppo è così. Alla fine un'arma che è abbandonata nel deserto rimane lì, un essere umano si decompone e alla fine ci sono tantissime persone che vogliono emigrare. Ecco, prima l'ascoltatore chiedeva perché siamo di fronte a persone vulnerabili, perché c'è una domanda altissima di servizi di trasferimento e quindi l'offerta arriva e questa offerta, come diceva Sari, che ha rischi bassi e perciò continuerà perché è una rete e continuerà perché sono organizzatissimi. Cioè alla fine quello che succede nel deserto è collegato a quello che succede qui in Italia e spesso queste mafie si parlano e stringono alleanze e perciò la loro attività funziona molto di più dell'attività di polizia, che pure è efficiente. Certo, la mia era chiaramente una provocazione, perché certo, insomma, io volevo in qualche modo far capire che questo business è lucroso. In più ha toccato un tema fondamentale. Quella che è la politica di chiusura dell'Europa, per cui si chiudono le rotte, no? Si cerca di tamponare, si chiude una porta ma si apre sempre una finestra, non fa che far salire il prezzo delle traversate, perché i migranti non si fermano. Cioè questo meccanismo rodato di cui parlava anche Sarrica non si può bloccare chiudendo la rotta di Lampedusa. Adesso la rotta greca, faccio un esempio su tutti, è quella più implementata, i prezzi stanno già iniziando a salire, per cui una volta costava 500 euro, adesso costerà 1000, 2000, 4000, 10.000 euro. Di Nicola, la specializzazione è un punto fondamentale di questo network di manager, no, dei trafficanti. Ascoltiamo insieme che cosa dice Cataldo Motta, che è a capo della Procura di Lecce, e spiega come la mafia albanese si sia imposta fornendo un servizio molto preciso, portando droga e uomini. Sono specializzatissimi. La criminalità albanese, che gestì questo settore sin dall'inizio, sostanzialmente si accreditò così agli occhi delle altre mafie internazionali per questo servizio, come gestore di questo servizio, che era appunto quello dell'attraversamento del canale d'Otranto. E nelle fasi successive al trasporto di clandestini, di immigrati albanesi, ci fu quello dei cinesi, ci fu quello dei turchi, ci fu quello dei russi, con interesse da parte delle organizzazioni criminali di questi paesi, che si affidavano agli albanesi per il trasporto. Cioè si arrivava in Albania e poi l'ultimo pezzo lo facevano gli albanesi. Era proprio un servizio, era un'agenzia di servizi. Attraverso questo mestiere gli albanesi si sono accreditati, perché poi, come dicevamo prima, attraverso questa via passò l'eroina, passò la cocaina, passò e passa tuttora la marijuana e poi passarono le armi. Sì. Allora, questa agenzia di servizi funziona perché è anche molto attenta. E c'è un punto fondamentale nelle logiche dei trafficanti. I trafficanti lavorano nelle frontiere, lavorano nei passaggi, lavorano nei colli di bottiglia, dove c'è un muro, dove c'è una rete da scalare. Pronto? Sono Bilal. Dillo a tua sorella che sono a Calais. Io prendo una nave stasera o domani, poi vengo a Londra da Mina. A Londra? E chi ti ha invitato? La regina? È impossibile passare. Da solo non ci arrivi. Ti serve un trafficante. E vuole 500 euro. Non so cosa le abbiano raccontato, ma non potrà entrare in Inghilterra. Fuori di qui, tutti fuori! Ghana Camboci, la menaranjavi. Vuole essere maili, giarana mavi. خود و خود فرمود من بیوفانی بیوفایا کد به چوی خوندیم. Allora, la voce che sentite è quella di un curdo iracheno. Era un ex tenente dell'esercito fuggito dal suo paese. Io ho incontrato a Calais, tirava vento e lui si stringeva nelle spalle. A Calais ci si imbarca per l'Inghilterra nascosti nei camion, ma un gruppo di curdi gestisce l'accesso al porto. Il tema è stato sfiorato, l'avete sentito, da un bellissimo film francese dell'anno scorso, il cui titolo, insomma, però sembra quasi ironico, perché diceva Welcome. Andrea Di Nicola, in chiusura, se facciamo nostro il modello imprenditoriale per cercare di capire questa mafia dei trafficanti, come si fa a farla fallire? Dunque, bisogna disarticolare questa rete e questa organizzazione. Se stringono alleanze strategiche, noi dobbiamo rompere queste alleanze, e lo dobbiamo fare sicuramente con alleanze di polizia, con la cooperazione giudiziaria, però è difficile, l'abbiamo sentito oggi, ma dobbiamo anche capire quali sono le opportunità che facilitano l'operato di questi trafficanti. Si diceva loro entrano nei colli di bottiglia, e ce ne sono tantissime di opportunità, e queste opportunità si possono chiudere. Pensate soltanto al mercato del lavoro negli Stati, al lavoro nero. Sembra che non abbia collegamento con le grandi mafie internazionali, eppure è un'opportunità. Se non ci fosse, se il mercato fosse meglio controllato, non ci sarebbero alcuni traffici destinati al lavoro nero. O pensate soltanto al controllo degli alberghi. Ecco, Cataldo Motta, che abbiamo sentito prima, sì, ci diceva che in tante discussioni che ha avuto con lui, spesso queste persone vengono alloggiate per giorni in alberghi italiani. Ora, un piccolo controllo lì disarticolerebbe una grande mafia, e siccome la mafia vive di organizzazione, vive di capacità, vive di supporto, vive di occasioni, eliminare quelle occasioni in diversi angoli del mondo funzionerebbe. È una forma di prevenzione situazionale legata ai luoghi, che dovrebbe andare di pari passo con la prevenzione attraverso il diritto penale, un po' di polso duro, certo, con la cooperazione giudiziaria, e poi sicuramente con tutti i metodi che permettono di assistere queste vittime. Grazie, perché... grazie Andrea Di Nicola, il tempo stringe, il tempo è tiranno, ahimè, vi devo salutare, grazie per la sua testimonianza precisa e puntuale. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. Allora, Stati Uniti, la Casa Bianca, verso l'allentamento delle restrizioni. La Casa Bianca sta mettendo a punto un pacchetto di misure volte ad allentare le restrizioni nei confronti di Cuba. Lo ha reso noto oggi il Washington Post, citando fonti interne dell'amministrazione Obama e del Congresso. Allora, storia bizzarra e curiosa, perché le agenzie questa mattina si sono rincorse. Prima sembrava un elicottero, poi si è capito che invece era un vecchio caccia russo. Insomma, un pilota nordcoreano ha deciso di disertare. Purtroppo è precipitato in territorio cinese. È precipitato con un vecchio MiG, pensate, degli anni 50. Aveva fatto probabilmente la guerra di Corea. Tentava di scappare dal regime nordcoreano. Ancora tensione con Marocco e Spagna, nuovo blocco merci a Melia. Oggi anche il País riporta questa querella che pare non avere fine, ve la stiamo raccontando giorno per giorno. Oggi nuovo blocco delle merci, prodotti alimentari freschi e materiale per la costruzione, ancora una volta. E infine vi riporto in Africa, dove nel Nord Kivu la tensione continua, pare non esserci pace, perché tre caschi blu indiani della missione MONUC sono stati uccisi a Kirumba, a un centinaio di chilometri da Goma. Sono stati uccisi, pensate, all'arma bianca, macete e coltello. Ma non è una forma di attacco così inusuale lì in Kivu, in Congo. Allora, 13:59, non mi resta che salutarvi e ringraziare Valeria Coffari in redazione, Fabio Cantadori e il suo tocco alla regia. Noi ci risentiamo domani 13:15, ricordate che nessun luogo è lontano.